Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non c'è bisogno di Vespa per vincere le elezioni, ci mancherebbe. Secondo, Vespa non potrebbe ospitare nessuno nella sua trasmissione, perché la sua trasmissione, siccome è un artista, non sarebbe ricondotta al TG1, quindi a testata giornalistica. Ritorna Fico del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della Vigilanza RAI, sulla polemica con Vespa, che ormai insomma anche questa è stata messa da parte, archiviata, però ribadisce a chi aveva fatto la domanda. Vi ricordate, nei giorni scorsi diceva che Bruno Vespa col suo porta a porta non poteva ospitare i esponenti politici per la campagna elettorale, perché ha un contratto d'artista che quindi sfonda il tetto che invece hanno altri in RAI. Lo ha ribadito, ma insomma poi le cose in realtà andranno ugualmente come sono sempre andate. Invece diciamo che oggi i due elementi di politica italiana più in vista, più in primo piano, sono la direzione PD e la legge elettorale, che insieme si intrecciano, perché all'interno del PD Renzi ha voluto ricordare che questo Rosatellum bis, se questo passerà, se andrà avanti, se passerà l'esame dell'Aula, spingerà delle coalizioni, quindi ha aperto a sinistra del PD, dicendo non sono loro i nostri nemici e quindi è giusto trovare un dialogo. Quindi ci occuperemo di politica, parleremo naturalmente ancora della Catalogna, visto che siamo a una vigilia, diciamo lunedì, di un giorno importante per capire se sarà dichiarata o meno questa indipendenza. Poi c'è la nazionale italiana in campo con la Macedonia per le qualificazioni mondiali, c'è il meteo, insomma un sacco di cose da raccontarvi come sempre in questa ultima giornata della settimana di Effetto Notte. Per interagire qui, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, e poi se no c'è il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Ci occuperemo anche del premio Nobel, che è stato dato in un contesto internazionale molto particolare. Prima di tutto allora racconto della giornata. La direzione del PD, Renzi apre alla coalizione a sinistra, gli ex Dem dice non sono avversari, con loro faremo battaglia su sicurezza e lavoro. Catalogna, un giudice di Barcellona avvia un'inchiesta sulle violenze ai seggi e il prefetto spagnolo chiede scusa. Intanto il governo spagnolo approva un decreto che agevola lo spostamento delle aziende catalane in altre parti della Spagna. La vicenda di Cesare Battisti, il Brasile ha un piano per il rientro dell'ex terrorista in Italia, ma la difesa annuncia ricorso alla Corte Suprema. Ilva, 4.000 esuberi nel nuovo piano, alto là dei sindacati, il ministro De Vincenti assicura non ci sarà nessun licenziamento. Crack Cirio, Geronzi condannato a 4 anni in via definitiva, nuovo processo per Cragnotti. Nobel per la pace 2017 va all'ICAN, organizzazione per il bando alle armi nucleari. Sport, i nuotatori azzurri Filippo Magnini e Michele Santucci sono indagati per doping. Calcio, a Torino in campo la nazionale contro la Macedonia. Partiamo quindi dalla politica italiana, con la direzione del Partito Democratico. Come vi dicevo, Matteo Renzi apre agli ex e ai fuoriusciti, dice non sono loro i nostri avversari. Matteo Renzi si prepara alla sfida delle politiche e punta sul centro-sinistra, così a sorpresa cambia i toni, conscio che se mai venisse approvato il Rosatellum bisogna investire sulla coalizione. I nostri avversari non sono quelli che sono andati via, spiega in direzione Dem. Bisogna quindi evitare di indebolire il PD e di dividersi, e soprattutto di non guardare al proprio ombelico. E per una volta la minoranza interna sembra pensarla allo stesso modo. Gianni Cuperlo. Il problema è che senza una ricomposizione di questo campo e senza una unità ritrovata, rinnovata della sinistra e del centro-sinistra, purtroppo vince la destra. Andrea Orlando insiste poi nel chiedere di lanciare un appello a MDP sulla legge elettorale, che continua il suo cammino in commissione alla Camera per approdare in aula la prossima settimana, e il PD torna indietro. La soglia del 3% da raggiungere in almeno 3 regioni per l'accesso al Senato chiesta da P non verrà introdotta, resterà quella del 3% a livello nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come vi dicevo, poi torneremo a parlare dopo della direzione PD, anche della legge elettorale. Per quanto riguarda invece le questioni legate alla Catalogna, sono stati resi noti oggi i risultati definitivi del referendum per l'indipendenza dello scorso 1 ottobre. Nel frattempo un giudice di Barcellona ha ordinato l'avvio di un'inchiesta sulle cariche della polizia contro i civili proprio il giorno del referendum, mentre il prefetto spagnolo in Catalogna, quindi il rappresentante della Spagna in Catalogna, chiede scusa alla popolazione per le cariche. Intanto il governo spagnolo approva un decreto che agevola lo spostamento delle aziende catalane ad altre parti della Spagna. aziende che temono evidentemente di restare fuori dall'Unione Europea se ci sarà l'indipendenza. Ma c'è anche l'allarme del Fondo Monetario Internazionale che dice che se la crisi catalana persisterà ci sono seri rischi per l'economia, e questo è un altro tema, vi dicevo, di cui che affronteremo qui a Effetto Notte. Brasile: sarebbe già pronto un piano per riportare in Italia l'ex terrorista Cesare Battisti, ma la difesa in mattinata ha avanzato un nuovo ricorso alla Corte Suprema. Brasile avrebbe già deciso, secondo la stampa locale. Il quotidiano Globo parla addirittura di un piano già organizzato, un aereo della Polizia Federale che potrebbe prelevare Cesare Battisti da Corumbá, la località nello stato di Mato Grosso do Sul dove si trova gli arresti, e portarlo a Roma. Ipotesi non confermata da fonti ufficiali, il presidente brasiliano Temer in questi giorni è impegnato nel fronteggiare la seconda denuncia di corruzione arrivata contro di lui in Parlamento. Ma lo stesso Temer, fanno notare fonti governative, ha dimostrato serio interesse a estradare Battisti come gesto di buona volontà con l'Italia, ma anche con i ministri giudici della Corte Suprema, che videro l'estradizione bloccata 7 anni fa dall'allora presidente Lula da Silva. Unica condizione, la commutazione della pena da ergastolo a 30 anni, il massimo previsto dalla legge brasiliana. Nel frattempo si è mobilitato a San Paolo il circolo dei difensori storici di Battisti, negli ambienti della sinistra locale che da tempo lo accompagnano nella sua latitanza brasiliana. Emiliano Guanella, Radio 24 e Sole 24 Ore, San Paolo. Di nuovo in Italia adesso con il crack Cirio, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Cesare Gerozzi. Nei mesi in cui si susseguono ad un ritmo che ha persino dell'incredibile i casi di risparmio tradito, gli ultimi riguardano i crack bancari, arriva una sentenza che riporta alla memoria quella che qualcuno ha ribattezzato la madre di queste vicende. Ed è sentenza definitiva quella che la Corte di Cassazione ha emesso per la bancarotta della Cirio di Sergio Cragnotti, consumatasi nel novembre del 2002, quando il gruppo rese noto di non essere in grado di rimborsare le obbligazioni in mano a 30.000 risparmiatori per 1 miliardo di euro. La conferma a 4 anni di condanna arriva per Cesare Geronzi, ex numero uno di Banca di Roma e Capitali, il banchiere ritenuto corresponsabile del fallimento di una delle aziende di punta del panorama agroalimentare italiano, che avvenne in un periodo drammatico per le famiglie italiane. In quegli anni, vittime non solo del caso Cirio, ma anche del crack Parmalat dello Stato argentino. Una condanna confermata dunque per Geronzi, dopo il verdetto identico emesso nel 2015 dalla Corte d'Appello di Roma, ma non per l'ex patron del gruppo, Sergio Cragnotti, appunto, per il quale viene disposto un nuovo processo. Definitive anche le altre condanne, a partire da quella per il figlio di Cragnotti, Andrea, 2 anni e 4 mesi di reclusione coperti da indulto. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sentenze equilibrate di rivincita morale e materiale per migliaia di risparmiatori che dopo ben 15 anni ricevono giustizia. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora un'altra azienda invece, l'Ilva. Sono 9.930 i dipendenti del gruppo Ilva che la cordata Aminvest Co. intende impiegare per il rilancio del gruppo con il Jobs Act. Gli esuberi saranno dunque 4.000. La FIOM non ci sta, dice non ci sono le condizioni per un tavolo, ma il ministro per il Mezzogiorno De Vincenti assicura non ci saranno licenziamenti. Numeri quelli messi nero su bianco dalla Aminvestco, in parte già noti. Poco meno di 10.000 allora i dipendenti che saranno impiegati per il rilancio del gruppo siderurgico, 4.000 gli esuberi. A livello contrattuale non vi sarà continuità tra la vecchia e la nuova gestione, i dipendenti saranno di fatto riassunti con il Jobs Act. Punto quest'ultimo bocciato dai sindacati, così come la ripartizione degli esuberi tra tutti i 600 di Genova che secondo i rappresentanti dei lavoratori non rientravano nell'accordo di programma. 8 le ore di sciopero annunciato intanto a Taranto su tutti e 3 i turni per lunedì, giorno in cui vi sarà il tavolo al Ministero dello Sviluppo tra azienda e sindacati. Così Rocco Palombella, segretario generale Wilm. Da un lato confermano i licenziamenti, dall'altro lato tagliano i salari, quindi riducono i salari, e poi chiedono anche una liberatoria, cioè i lavoratori dovrebbero accettare la riduzione salariale. Quindi è un capolavoro che praticamente scontenta tutti. Dal governo tuttavia la vice ministra allo sviluppo economico Bellanova ribadisce: al termine del confronto nessun lavoratore rimarrà senza tutele reddituali e occupazionali. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso una notizia che arriva da Riace, che riguarda il sindaco di questo paesino della Calabria, diventato famoso nel mondo per la politica di accoglienza dei migranti. Lui si dice sconcertato, e lo saranno presumibilmente anche nella redazione della rivista Fortune, che lo ha inserito tra i 50 leader più influenti al mondo, accanto a gente come Angela Merkel, Papa Francesco, Jeff Bezos, Bono, Domenico Lucano, sindaco di Riace, famoso a livello internazionale per aver trasformato il suo paese in un modello di integrazione dei migranti, è indagato dalla Procura di Locri proprio per i fondi destinati all'accoglienza dallo Stato e dall'Unione Europea. Le ipotesi di reato sono concussione, abuso d'ufficio e truffa. I magistrati vogliono capire come siano stati utilizzati quei soldi. Lucano dice di non aver nulla da nascondere. Non ho nessun bene nascosto, non possiedo niente e non ho conti segreti. Allora ben vengano i controlli su di me e che siano il più approfonditi possibile. Ma già monta la polemica sulla Rai, che solo nel maggio scorso aveva annunciato di voler realizzare una fiction sul sindaco con protagonista Beppe Fiorello. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una sentenza piuttosto inedita riguarda un 18enne omosessuale che è stato allontanato da casa a Napoli dalla famiglia. Riceverà un assegno dai genitori. Questo lo ha stabilito il Tribunale di Napoli Nord. Appena diventato maggiorenne è stato messo fuori di casa dalla madre perché gay. Accade a Napoli e ora il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito che il giovane diciottenne avrà un assegno di mantenimento dai genitori. Il giudice ha accolto la richiesta del ragazzo, assistito dall'avvocato Salvatore Simioli, e ha motivato la decisione con la sua mancata indipendenza economica, che nasce da una non accettazione della famiglia, come racconta il ragazzo stesso al Mattino di Napoli. Lo stesso giudice non si è però espresso sull'altra richiesta del giovane, che voleva un legame affettivo con la sorella più piccola, cosa che viene impedita dalla madre, che ha riferito che non sarebbe educativo per la bambina frequentare un fratello omosessuale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Che dire? Passiamo a un altro argomento, la violenza contro le donne. In questo caso si parla di una donna che era stata strangolata dal suo ex compagno. Si riapre il caso. Chi è che non l'ha protetta? A volte ci sono magistrati che non si arrendono di fronte a queste cose. La notte prima di essere uccisa dall'ex fidanzato che la perseguitava, Maria Deligia aveva chiamato i carabinieri perché con un'amica aveva trovato l'uomo per l'ennesima volta sotto casa mentre stava rientrando. Poche ore dopo, all'alba del 23 settembre 2013, Giuseppe Pintus, l'ex compagno che la perseguitava, l'ha strangolata a pochi metri dalla sua abitazione quando la ragazza era uscita per andare a lavorare al bar. Su quella telefonata ai militari, telefonate di lei che chiedeva l'intervento, ma anche sul fatto che la diffida del questore nei confronti dell'ex non sia stata mai notificata, la GIP del Tribunale di Cagliari ha chiesto alla Procura di continuare a indagare, e convinzione della madre dei fratelli della vittima che poteva essere salvata se i militari fossero intervenuti. Ora la PM riprenderà in mano il fascicolo cercando di capire cosa non abbia funzionato nella rete di protezione della giovane che da tempo, come succede in molti casi, denunciava le persecuzioni dell'uomo che poi l'ha strangolata. Ora il Nobel per la pace 2017 va ad ICAN, scritto ICAN, un'organizzazione internazionale per il bando delle armi nucleari. La presidente di ICAN ha subito reagito affermando che la presidenza di Donald Trump costituisce la prova di quanto l'arma atomica sia pericolosa. Andremo più nel dettaglio di questo premio nel corso di Effetto Notte. Intanto, per chiudere lo sport, nuoto, i nuotatori azzurri Filippo Magnini e Michele Santucci sono indagati dalla Procura Antidoping di Nado Italia sulla base degli atti dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pesaro nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini. La Procura contesta ai due nuotatori l'uso o tentato uso di sostanze dopanti e il favoreggiamento del codice Vada. Invece per il calcio va dal nostro Giovanni Capuano, c'è la nazionale in campo con la Macedonia, qualificazioni mondiali, vero Giovanni? Sì, qualificazioni mondiali penultimo atto, mancano 180 minuti, ne mancano in realtà in questo momento 152 e poi noi sappiamo già qual è il nostro destino, quindi quasi certamente al 99% è andare ai playoff di novembre. Serve però un punticino tra questa sera e la gara di lunedì con l'Albania. Questa sera è una partita in realtà che l'Italia può ampiamente vincere. Siamo al 29esimo minuto, risultato 0-0. Italia che ha cominciato con il piede schiacciato sull'acceleratore e ha avuto subito una grande occasione al settimo con Insigne che si è praticamente presentato tu per tu davanti al portiere macedone Dimitrievski, ma poi si è mangiato la rete del vantaggio. Sembrava un inizio promettente, poi in realtà gli azzurri che questa sera giocano in maglia bianca hanno lentamente abbassato i ritmi, c'è stato qualche errore di troppo in difesa da parte della coppia Bonucci-Barzagli c'è stato un tentativo di Pander che ha impegnato Buffon in una parata comunque abbastanza semplice, e c'è un gioco un po' confuso, un po' arruffato in questo momento dell'Italia, che non riesce a trovare con regolarità lo sbocco nell'area di rigore macedone. Quindi 0-0, dicevamo basta un punto, quindi potrebbe anche andar bene così. In realtà di punti in due partite ne servono 6, perché l'Italia deve blindare il suo posto da testa di serie nello spareggio che porterà al Mondiale, per non rischiare un sorteggio che ci accompagni a una squadra temibile. Da non testa di serie potremmo ad esempio pescare il Portogallo, che rischia di chiudere secondo il suo girone, Portogallo campione d'Europa, oppure la Croazia, insomma, giusto per citare avversari che potrebbero mettere davvero in difficoltà questa nazionale, e che in questo momento, in questa fase della stagione, non sta certamente esprimendo il suo miglior calcio. 30 minuti appena superati a Torino, 0-0 tra Italia e Macedonia. L'Italia ha giocato bene i primi 7-8 minuti, adesso è un'Italia deludente. Beh, vedremo come prosegue. Allora, Giovanni Capuano, ce lo dirai tu man mano. Adesso invece ci lasciamo brevemente, così aggiorniamo chi sta viaggiando, prima di affrontare i vari temi con gli ospiti. Gianfranco dice che il 9 ottobre 2017 è il cinquantenario dell'assassinio di Ernesto Che Guevara. Dice giusto ricordarlo, Gianfranco, certo, ma siamo un po' in anticipo, diciamo, di 3 giorni. E poi invece Maria Cristina, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della vicenda del ragazzo 18enne omosessuale allontanato dalla famiglia appunto perché gay, dice che cosa squalida, come si può fare una cosa così? Bella domanda. 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS, se volete fare i vostri commenti sulle notizie del giorno, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ricordatevi tutte le sere di ascoltare Effetto Notte puntualmente dalle 21 alle 22, da non perdervi nessuna notizia, perché così un giorno non potrete dire io non lo sapevo. Io sono qui tutte le sere per voi, Roberta Giordano, per raccontarvi quelle che sono le notizie principali dall'Italia e dall'estero, e approfondire alcuni temi per chiarirli, per capirli meglio insieme agli ospiti. Pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi, per i vostri commenti, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, altrimenti il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Dice già questo ascoltatore, a proposito della legge elettorale, che ancora insomma, deve fare il suo cammino, cosa non si fa per far fuori il Movimento 5 Stelle, un inciuccione doppio con anche MDP per approvare la nuova legge elettorale. Poi ne parleremo tra pochissimo con la nostra ospite, intanto però per quelli che sono un po' ritardatari ricordo i fatti principali. La direzione del PD, Renzi apre alla coalizione a sinistra, gli ex Dem dice non sono i nostri avversari, con loro faremo battaglia su sicurezza e lavoro. E poi la Catalogna, con un giudice di Barcellona che avvia un'inchiesta sulle violenze ai seggi del 1 ottobre, e il prefetto spagnolo che chiede scusa intanto per quelle violenze. E poi c'è questo decreto del governo spagnolo per agevolare lo spostamento delle aziende catalane ad altre parti della Spagna. La vicenda di Cesare Battisti, il Brasile ha un piano per il rientro dell'ex terrorista in Italia, però la difesa di Battisti annuncia ricorso alla Corte Suprema. L'Ilva, 4.000 esuberi nel nuovo piano, c'è l'alto là dei sindacati, ma il ministro De Vincenti assicura che non ci sarà nessun licenziamento. Per il crack Cirio c'è la sentenza della Cassazione, Geronzi condannato a 4 anni in via definitiva, nuovo processo invece per Cragnotti. Il Nobel per la pace 2017 va ad ICAN, organizzazione internazionale per il bando alle armi nucleari. E poi sport, i nuotatori azzurri Filippo Magnini e Michele Santucci sono indagati per doping. Vi aggiorno sulla partita per le qualificazioni mondiali della nazionale dell'Italia contro la Macedonia, sempre 0-0. Concentriamoci dunque sulla politica italiana. Allora, sono stati fatti, pare, dei passi avanti sull'accordo per la legge elettorale. E poi c'è stata la direzione PD, insomma, quell'assemblea che c'è di tanto in tanto, con la quale viene data appunto la direzione al partito, in che direzione deve andare. E poi ci sono ancora degli strascichi, anzi abbastanza consistenti, dello Ius Soli. Ieri ne abbiamo parlato piuttosto lungamente, con anche i vostri commenti, un sacco di commenti ieri sullo Ius Soli, perché cosa c'è da aggiungere oggi? Che si sono aggiunti altri esponenti politici a questa lunga lista di coloro che fanno lo sciopero della fame per l'approvazione di questa legge. E poi c'è Alternativa Popolare, di Alfano, con Lupi, che è coordinatore nazionale, che ha detto, pare una parola definitiva su questo argomento, dice: lo Ius Soli non passerà semplicemente perché noi non siamo d'accordo che questa legge passi così come ha detto. Quindi sognatevi la fiducia. Ora ne parliamo di questi argomenti politici con Emilia Patta del Sole 24 Ore. Cara Emilia, ben trovata. Buonasera. Allora, ci sono novità che riguardano la legge elettorale. Una cosa che mi ha fatto un po' sorridere è questo emendamento che è passato. Nel caso in cui due candidati in un collegio uninominale ottengano lo stesso numero di voti, è eletto il più giovane di età. C'è stato un po' di bisticcio su questo, perché per esempio Sisto di Forza Italia voleva che vincesse il più vecchio, invece questo emendamento Fiano vince il più giovane. Che ne pensi? Così, parte il sorriso. È un dettaglio della legge elettorale, ma rivelatore del fatto che si vuole dare un'impressione di cambiamento, di rottamazione, no? Di rottamazione, ancora un po', un pochino, qualche eco, perché no? Normalmente in tutte le leggi elettorali la prassi, cioè era stabilito che in caso di parità, che tra l'altro un caso veramente difficile, beh, no? Sì, sì. Un caso raro, vincesse il più anziano. Invece per la prima volta si dà per vittorioso il più giovane, vuole chiaramente essere un segnale di rinnovamento della classe dirigente. Infatti Forza Italia anche era contraria, ma alla fine è passata questa cosa. Ma insomma, il caso che due è molto molto raro, come dicevi, esattamente lo stesso numero è piuttosto raro. Senti, insomma, invece le altre novità più importanti di questa, che fa un po' sorridere, della legge elettorale nel suo iter, perché poi bisognerà vedere insomma se passa o non passa, che è legata anche alla direzione di oggi del PD, no, con Renzi che ha detto questa legge Rosatellum, se passa Rosatellum bis, spinge la coalizione, quindi per quello che apre a sinistra. Ma intanto ci dici proprio sulla legge elettorale proprio le macroscopiche novità. Ma di macroscopiche novità alla fine non ce ne sono, perché oggi i centristi di AP hanno ritirato un emendamento che tendeva in qualche modo ad abbassare la soglia del 3%, perché loro proponevano di fare questa soglia, farla valere a livello regionale, invece poi è stato ritirato, per cui la soglia del 3% rimane a livello nazionale. Quella di sbarramento, cioè chi non ha almeno quella percentuale di voti. Perché Alfano non chiaramente entra in Parlamento. Preoccupato di non superare il 3%, mentre in alcune regioni dove ha la sua base elettorale lo supererà sicuramente, quindi voleva fare questa differenziazione. Però insomma alla fine non è passato, perché anche il PD si è opposto, perché dava un po' un segnale di norma salva Alfano. Quindi l'impianto poi di fondo è rimasto lo stesso, quindi una quota del 36% di collegi uninominali e il resto un proporzionale con soglia di sbarramento al 3% e piccole liste bloccate, cioè non c'è il voto di preferenza, ma le liste sono da 2 a 4 con i nomi scritti sulla scheda, in modo che l'elettore almeno sappia, no, dove va a parare il suo voto. Per intendersi, se c'è tra i tre candidati uno che gli è antipatico, che considera indegno o disonesto, non vota la lista, insomma, quindi un minimo di collegamento tra elettore e eletto c'è in questo modo. Emilia, sentiamo invece, allora, diceva prima l'ascoltatore, scriveva che è un inciuccione per far fuori il Movimento 5 Stelle, allora sentiamo proprio Castelli del Movimento 5 Stelle. Sì. Renzi e Berlusconi con l'aiuto di Salvini hanno messo in piedi una legge elettorale per far fuori il Movimento 5 Stelle, un blitz fatto di coalizioni, accozzaglie e norme che favoriscono i piccoli partitini dello zero virgola. Poi anche Di Maio adesso sentiamo che se la prende con Salvini, perché sappiamo che questo accordo è praticamente tra, su questa legge elettorale, PD, Forza Italia, Lega e Alternativa Popolare, no? Allora Di Maio adesso sentiamo come critica Salvini. La vergogna vera è che Salvini per qualche poltrona si è venduto e voterà una legge elettorale per riportare Renzi e Berlusconi al governo senza neanche le preferenze. Che ne pensi, Emilia? Beh, intanto è curioso che appunto Di Maio si rivolga a Salvini come se fosse un possibile alleato. No? Se ne è parlato tanto, anche se a me sembrano talmente diversi che la vedevo difficile. Insomma, evidentemente c'è qualcosa che li unisce, insomma, quest'anima un po' contro l'Europa, no? Si appella all'anima populista di Salvini. E in realtà le preferenze, abbiamo detto prima, insomma, che il meccanismo è stato superato in questo modo. Certo, l'ideale sarebbe stato avere quasi tutti i candidati nei collegi uninominali, come in Inghilterra, come era nel Mattarellum a suo tempo, che tra l'altro a suo tempo il Movimento 5 Stelle diceva che andava bene. In realtà il punto vero che sfavorisce il Movimento 5 Stelle, in questo hanno ragione ad essere contrari, è che loro non hanno la coalizione, vanno da soli, quindi nei collegi si trovano in difetto rispetto al PD, che magari si può alleare con i centristi da una parte, con una lista di sinistra dall'altra, e rispetto al centrodestra, che abbiamo visto anche nelle amministrative, quando si presenta unito sembra essere piuttosto forte, quindi nei collegi è difficile che il Movimento 5 Stelle ne possa prendere tanti. In questo senso è vero che c'è insomma un'anima antigrillina in questa legge, perché incentiva le coalizioni, non solo, ma anche perché il Movimento 5 Stelle, essendo un movimento giovane, ha poco radicamento nel territorio e ha poche facce, diciamo così, spendibili, presentabili, no? Nei collegi più importanti. Sentiamo anche Rosato, da cui prende il nome per appunto questo Rosatello in questa legge elettorale, cosa dice? La coalizione la faremo con chi ci sta, su un progetto, su un programma di sviluppo per il nostro paese, contro la destra, contro il populismo. È chiaro che bisogna mettersi insieme, lo facciamo con la consapevolezza che ci si mette insieme perché si hanno idee che sono compatibili e perché si ha un progetto per l'Italia. Quindi, Emilia, la coalizione la faremo con chi ci sta. E Renzi, mi pare che insomma abbia un po' fatto calare il muro, nel senso scendere il muro, rompersi rispetto alla sinistra, no? Ma sì, è la prima volta che lui dice... Mettiamoci tutti insieme, non siete i nostri nemici, fuoriusciti, di MDP, Bersaniani, eccetera. Mossa strategica, ma sarà possibile? No. Secondo me Renzi veramente non pensa a rimettersi insieme a D'Alema e Bersani, e d'altra parte neanche loro, appena usciti dal PD, pensano con leggerezza a fare subito un'alleanza con il PD. Sicuramente è una mossa strategica questa di Renzi, che è rivolta più che a Bersani e D'Alema e fuoriusciti a Pisapia. Per cercare di strapparlo, no, lo vogliono tutti Pisapia, Pisapia, perché insomma poi lo mette a capo di questa lista di sinistra alleata con il PD, e sicuramente copre di più e isola un po' i bersaniani in una ridotta diciamo così di sinistra che non si vuole alleare con nessuno, almeno questa è l'intenzione di Renzi. È chiaro che sarà importante vedere se la prossima settimana, se Rosatello non regge i voti segreti in aula, per capire anche le mosse di Pisapia, insomma, che a questo punto potrebbe dire no, non, il progetto con MDP non va più avanti, dato da solo, e aprire una strada delle alleanze. Quindi la mossa di Renzi è tattica, e soprattutto non vuole fare lui la parte di quello che mette i veti, sapendo che in realtà sono anche i suoi ex compagni di partito che non vogliono avere a che fare con lui, insomma. Certo. Quindi aspetteremo la prossima settimana per sapere qualcosa di più. Grazie Emilia Patta, buon fine settimana. Grazie a voi. Ciao Emilia. Ci prendiamo una pausa adesso, come sempre, a questo punto, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggio WhatsApp, che è 349-238-6666. Dunque, dice per esempio questo ascoltatore o ascoltatrice, Dodi, devo immaginare un uomo, dice... mi fanno segno che l'Italia ha fatto un gol. Ecco, poco prima di lasciarci, guardate, questo gol dell'Italia sulla Macedonia. Quindi per ora 1-0 prosegue la partita, mentre Dodi dice: Roberta, per favore, ci spieghi chiaramente, non mi dà da lei, cosa dobbiamo intendere quando gli addetti dicono populismo, come l'attuale tuo ospite. È arrivato un po' tardi il messaggio per girarglielo. Populismo, per chi in genere si intende, per chi è demagogo e quindi fa della demagogia, e cerca di titillare un po' la pancia degli elettori, del popolo, più che spendersi in veri programmi, no? Di realismo politico. Magari dice cose facili che sa che hanno un consenso di massa, anche se poi sono poco applicabili per un verso o per un altro, insomma, per conquistare così con molta facilità, questo dovrebbe essere il significato, il consenso del popolo. Dodi, ci sentiamo tra poco, Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, fate benissimo, perché siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Quindi riprendiamo allora a approfondire i vari argomenti. Abbiamo parlato lungamente di politica italiana, adesso parliamo di politica spagnola, catalana, insomma tutte e due, è che alla fine è anche una questione europea, sebbene l'Europa dica non spetta a noi, noi vi spingiamo al dialogo, ma non è nostra competenza, diciamo, intervenire in questa vicenda così delicata. Quindi parliamo di crisi catalana, stiamo seguendo passo passo, anche perché lunedì poi sarà una giornata particolarmente importante, però per chi avesse acceso colpevolmente anziché alle 21, ora ricordo brevemente i fatti principali. Abbiamo parlato della direzione del PD con Renzi, che ha deciso di aprire, almeno così a parola, la coalizione a sinistra. Gli ex Dem dice non sono gli avversari, con loro faremo battaglia su sicurezza, lavoro e gli altri temi. La Catalogna, ne parleremo tra pochissimo degli sviluppi, e poi la vicenda di Cesare Battisti. Il Brasile dice di avere un piano per poter far rientrare l'ex terrorista in Italia, come l'Italia chiede da tempo, però il suo difensore ha fatto ricorso alla Corte Suprema. L'Ilva, ci sarebbero 4.000 esuberi nel nuovo piano, i sindacati danno subito l'alto là, ma il ministro De Vincenti assicura che non ci sarà nessun licenziamento. Sul crack Cirio, la sentenza della Cassazione con Geronzi, che è condannato definitivamente a 4 anni, invece ci sarà un nuovo processo per Cragnotti. Parleremo anche del Nobel per la pace 2017, che è stato dato all'organizzazione internazionale ICAN per il bando alle armi nucleari. Per lo sport, sono indagati per doping i due nuotatori Filippo Magnini e Michele Santucci. E per il calcio, vi dicevo prima che tra Italia e Macedonia è 1-0 l'Italia, anche se lì segna in modo sbagliato quel video, perché l'Italia, poco prima che ci lasciassimo, prima ha fatto un gol in questa partita di qualificazione ai mondiali. Adesso, eh sì, quello era un replay, perché alzando gli occhi ogni tanto non mi rendo conto se cambiano le immagini per un fatto o per un altro. Adesso invece concentriamoci su cose serie, la crisi catalana. Un giudice di Barcellona, intanto oggi sono stati resi noti definitivamente i risultati del referendum che c'è stato il 1 ottobre, molto travagliato, vi ricordate anche insomma scontri, grandi violenze da parte della polizia spagnola. Un giudice di Barcellona ha ordinato proprio su queste violenze un'inchiesta sulle cariche della polizia, mentre il prefetto spagnolo in Catalogna, quindi rappresentante massimo spagnolo in Catalogna, oggi ha chiesto scusa per quelle cariche della polizia. Nel frattempo il presidente catalano Puigdemont ha chiesto di intervenire martedì davanti al Parlamento di Barcellona. E però ci sono anche dei risvolti economici a questa vicenda, perché il governo spagnolo cosa ha fatto? Ha approvato un decreto che agevola lo spostamento delle aziende catalane in altre parti della Spagna, perché molte di queste hanno timore che nel caso venga davvero dichiarata l'indipendenza perderebbero la possibilità di essere dentro all'Unione Europea. E c'è anche un allarme, Sergio Nava, ciao, ciao, benvenuto, del Fondo Monetario Internazionale, che dice che ci potrebbero essere dei seri rischi per l'economia. Sì, diciamo che anche oggi è stata una giornata ricca di notizie, anche se in realtà poi si è mosso tutto sommato abbastanza poco sul fronte concreto. Le cose più importanti, che molte le hai dette, è lo spostamento di CaixaBank, che è la più importante banca catalana, l'ha spostato proprio stasera la sede legale a Valencia. Anche il colosso del gas, no? Anche il gas naturale, che è andato a Madrid. Chiaramente non si tratta di spostamenti di sedi legali, quindi tecnicamente non spostano lavoratori. Però è chiaro che è sicuramente un primo passo questo. No, beh, sicuramente è un fatto simbolico importante che mette una pressione pazzesca su Barcellona, effettivamente, perché l'idea di arrivare a dichiarare l'indipendenza unilaterale lunedì, poi lunedì è stata la Corte, il Tribunale ha sospeso la seduta di un Parlamento, seduta peraltro ancora non convocata, adesso martedì Puigdemont andrà appunto a fare il punto della situazione in Parlamento. Non è chiaro cosa dirà o se annuncerà comunque una dichiarazione o meno, però l'aria si respira chiaramente è di una fortissima pressione economica, come direbbe ricordando i tempi di Bill Clinton, it's the economy, purtroppo alla fine è sempre l'economia che è la detta le regole, e quindi in realtà cioè it's the economy stupid, ma questa è la situazione in questo momento. C'è una forte pressione soprattutto economica, si cerca ancora una mediazione, oggi se ricordo bene la Svizzera si è offerta di mediare. Spesso la Svizzera si offre di mediare, era un'altra crisi forse. Quantomeno qualcuno lo fa, perché l'Europa ancora dice un affare interno e l'Europa quindi continua a scaricare il barile, quindi qualcuno di autorevole, un si paese terzo si fa finalmente, grazie a Dio potremmo dire. Quindi è una situazione di grande incertezza sicuramente, proprio perché In qualche modo si è un po' perso il filo. C'era, come dire, ricordiamo, c'era una legge di transizione varata a inizio settembre, diceva a 48 ore dalla certificazione dei risultati, oggi, cioè quando sono arrivati i risultati definitivi del referendum col 90% di sì e l'indipendenza, dopo 48 ore, ora lasciamo perdere sabato e domenica, si andrebbe a quel punto a martedì, si dovrebbe, secondo quella legge, dichiarare l'indipendenza dalla Spagna. Cosa accadrà? Difficile dirlo. Il tutto mentre oggi il comandante Mossos, la polizia catalana, e i due massimi rappresentanti delle associazioni civili hanno dichiarato all'Audienza Nazionale che li ha citati per sedizione. Ci saranno, per ora sono a piede libero, però ci saranno altre udienze, altre deposizioni. Domenica c'è la prima grande manifestazione degli unionisti, di chi vuole rimanere con la Spagna. Anche lì sarà interessante vedere. Finora abbiamo visto masse oceaniche da parte degli indipendentisti, centinaia di migliaia di persone in piazza. Riusciranno gli unionisti a coagulare persone? Ne parlavamo ieri, no, con il corrispondente da Barcellona, Sergio, che diceva che inizialmente probabilmente gli unionisti erano più degli indipendentisti, però tutti volevano andare a votare, avere il diritto di votare. Dopodiché le violenze delle forze dell'ordine spagnole probabilmente hanno spinto, quella zona grigia di indecisi è andata verso gli indipendentisti. Sì. Ora si stanno un po' calmando le acque. L'hai detto tu, anche il prefetto spagnolo ha chiesto scusa con 5 giorni poi di ritardo, insomma, diciamo, parecchio in ritardo. Però non so se vogliamo far ascoltare ai nostri ascoltatori quell'umorismo che si sta facendo, però anche sulle TV catalane. Sentiamo. L'anno 75 sta su una mala settimana. Allora, quello che ascoltate è c'è un programma satirico, in realtà sono due, uno si chiama Pulonia e l'altro Cracovia. Questo in Catalogna. Sono sulla TV catalana, per i catalani sono programmi satirici molto divertenti, soprattutto per chi sa il catalano, sono programmi estremamente divertenti in questi giorni, penso ieri comunque, non mi ricordo quando vada in onda, comunque c'è stato questo video in cui si vede il generalissimo Franco che canta e balla una rumba catalana, nel quale dice: non sono mai morto, scusate, non sono mai morto, domenica ero a Barcellona e vicino a lui ballano, a proposito delle violenze, insomma, a proposito delle violenze, vicino a lui ballano degli agenti della Guardia Civile. Chiaramente qualche polemica la potrà far scaturire questo video. È noto che i catalani, diciamo, sono tra i più antifranchisti di Spagna poiché la transizione spagnola non ha, purtroppo, come è successo in Germania, ha cancellato gli orrori della dittatura e di ciò che è stato il fascismo in Spagna franchista, tutto questo poi alla fine ritorna, perché non c'è stata una seria autoanalisi su quello che il franchismo è stato per il paese, con le fucilazioni, le esecuzioni, le torture e 40 anni di dittatura. Anche se qui, Sergio, naturalmente parliamo delle violenze di domenica, non siamo a quei livelli, no? La mano è stata forte, pesante. No, ovviamente non sono neanche lontanamente paragonabili, però attenzione, la memoria storica è Barcellona, nelle prigioni del Montjuic, nella Jefatura Superiore di Polizia di Via Laietana, dove venivano torturati dalla polizia gli antifranchisti, e in altri luoghi storici, è ancora forte. Quindi c'è tanta gente con cui ho anche parlato che magari ha un nonno fucilato dai franchisti, e per questo è un po' quello che è successo anche in Argentina, il fatto di non averlo rielaborato fino in fondo. Ma senti, Sergio, per chiudere, si parla sempre proprio di Catalogna, di Barcellona, che è la capitale di questa regione, con la sua autonomia, il suo governo, Parlamento, eccetera, ma il resto della Catalogna? Il resto della Catalogna, intendi come diciamo seguimento, su come si segue la questione indipendentista? Ma diciamo che paradossalmente forse Barcellona e la costa sono un po' meno indipendentiste. Stavo prima guardando le percentuali di sì all'indipendenza. Ovviamente sono percentuali bulgare, insomma, siamo sempre dove è stata bassa, è stata sopra l'80%, ma la cartina ci fa chiaramente vedere che l'entroterra è molto più indipendentista. A Girona, nella provincia di Girona, c'è stato un 94,8% di sì. Lleida è un altro bastione dell'indipendentismo, quindi diciamo che l'entroterra è ancora più indipendentista. Tranne ci sono soprattutto due città, Badalona e l'Hospitalet, che essendo città diciamo di forte immigrazione, soprattutto dall'Andalusia degli anni 60, 50 e 60, sono più unioniste, però se andiamo a guardare l'entroterra ancora più indipendentista. Grazie Sergio. Grazie a te, ciao. Ciao Sergio, viabilità. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie con l'Italia che conduce sempre per 1-0 per il momento sulla Macedonia nella partita per le qualificazioni mondiali. Poi della direzione del PD abbiamo parlato con Renzi che apre alla coalizione a sinistra. La Catalogna, argomento appena affrontato con le ultime novità. E poi la vicenda di Cesare Battisti. Il Brasile dice che ha un piano per farlo rientrare in Italia, l'ex terrorista, però bisogna vedere perché il suo difensore annuncia ricorso alla Corte Suprema. E poi il Nobel per la pace 2017, ne parliamo adesso. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. L'annuncio per il Nobel per la pace è arrivato dal Comitato dei Nobel a Oslo e ha rispettato un po' le previsioni, no? Tra crisi nordcoreana e braccio di ferro tra Teheran e Washington sugli armamenti nucleari, era abbastanza prevedibile che il tema fosse questo del nucleare. Infatti è stata premiata l'organizzazione internazionale ICAN, scritto ICAN, che è un'organizzazione per il disarmo nucleare. È stata, forse non è conosciuta di più, ma insomma decisiva nel percorso per la messa al bando, almeno avviare questo percorso per la messa al bando delle armi nucleari. Un'organizzazione fondata nel 2007, raccoglie 406 organizzazioni partner in 101 paesi. La motivazione è quella dell'Accademia di Oslo, il suo ruolo nel fare luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizione di queste armi. La direttrice, la presidente di questa organizzazione internazionale, Beatrice Fina, ha detto: è un onore immenso. L'elezione di Donald Trump, ha detto, ha messo a disagio molte persone, dato che lui ha la possibilità da solo di ricorrere all'arma nucleare. E vi ricordo che in un tweet di qualche giorno fa aveva scritto: Donald Trump è un imbecille. Poi oggi ha spiegato che voleva essere una battuta. E questo premio all'ICAN è stato accolto con esultanza in Giappone, soprattutto dai sopravvissuti di Hiroshima. Ne parlo con Nicola Missaglia, ricercatore dell'ISPI. Buonasera Missaglia. Buonasera dottoressa Giordano, buonasera a tutti gli ascoltatori. E, diciamo che effettivamente cade in un contesto particolare e non a caso, no? Con, dicevamo, da una parte Trump che vuole stracciare questo accordo raggiunto con molta difficoltà da Obama con l'Iran sul programma nucleare, e dall'altra questo lanciarsi minacce a vicenda con il dittatore nordcoreano. Diciamo che indubbiamente si deve dire che è arrivato in un momento, al momento giusto, molto tempestivo questo premio Nobel, anche se in realtà l'organizzazione non era tra la rosa dei favoriti inizialmente previsti. Perché però arriva al momento giusto? Perché, come dice lei, siamo in un momento molto particolare per la comunità internazionale, in cui lo spettro di una guerra nucleare, comunque di una minaccia nucleare, torna dopo la guerra fredda ad abbattersi su molti paesi. Da un lato, come tutti sappiamo, a causa della crisi nordcoreana, del programma missilistico e nucleare portato avanti da Kim Jong-un e della retorica bellicosa che intorno a questa crisi si sta un po' avvitando, diciamo, anche con il contributo di Trump in qualche modo. L'altro motivo per cui questo premio arriva in un momento giusto riguarda l'Iran e riguarda il trattato sul nucleare iraniano, che proprio in questo momento sta attraversando una fase delicatissima. Infatti Trump entro il 15 ottobre dovrebbe rinnovare il sostegno dell'amministrazione americana a questo trattato, però come abbiamo sentito sempre più spesso negli ultimi mesi e negli ultimi giorni, Trump non sembra realmente intenzionato a farlo, e questo potrebbe avere senza dubbio delle conseguenze e sul futuro del trattato e anche sull'Iran, perché si tornerebbe, se il trattato fosse stracciato, a una fase di forse di sanzioni o comunque di chiusura di quel paese. Quindi diciamo è un riconoscimento importante, è un segnale a questi paesi che dà sia l'ICAN, l'organizzazione internazionale che è stata premiata, sia ovviamente la stessa Accademia norvegese, no? Paesi come Corea del Nord, gli Stati Uniti, ma anche la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna, l'India, il Pakistan che hanno l'arma nucleare. Grazie intanto a Nicola Missaglia. Grazie, grazie, buona serata. Giovanni Capuano, 1-0 per l'Italia ancora? Sì, 1-0 per l'Italia, ha segnato Chiellini quando mancavano 5 minuti alla fine del primo tempo non straordinario per la nazionale azzurra. Chiellini però è stato bravo da due passi a mettere dentro un'azione che era stata congegnata da Insigne di Immobile e si è trovato al posto giusto nel momento giusto, e quindi un difensore fin qui la sta risolvendo, ha dato all'Italia il vantaggio. E un vantaggio che è nato dopo un primo tempo in cui gli azzurri avevano avuto soltanto un paio di occasioni. La prima grande l'avevamo raccontata con Insigne, che si era trovato a tu per tu con il portiere della Macedonia, ma era stato ribattuto, quindi era stato impreciso. E l'altra poi nel corso del primo tempo con Zappacosta, ma anche in questo caso la conclusione del nostro difensore non era stata precisa. Poi è arrivato il gol di Chiellini in questa ripresa, dentro Rugani, fuori Barzagli, c'è la Macedonia che sta provando un po' ad alzare i ritmi, Italia che si spera riesca a controllare da qui in poi la partita. Il gioco. Grazie Giovanni Capuano, ciao Giovanni, buona partita. E buon tempo, speriamo, Corazzon, il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, dacci il nostro sole quotidiano. Ma sì, Paolo. Buonasera Roberta, guarda, tutto sommato buone notizie, anche se il weekend partirà domattina con degli acquazzoni al sud. Il sud Italia avrà un inizio di weekend un po' movimentato con appunto degli acquazzoni e soprattutto parecchio vento, vento dai quadranti settentrionali che porta aria più freddina, quindi domani netto calo delle temperature al sud, pensa in Puglia ad esempio non andremo tra i 16 e i 17 gradi, però al centro-nord già dal mattino ampie zone di sereno e poi dal pomeriggio di domani anche al sud inizia a migliorare in vista poi di una domenica che sarà nel complesso bellina in tutta Italia, quindi con solo qualche nuvola di passaggio, quindi davvero grandi piogge non ce ne sono e ti dirò di più, anche settimana prossima grandi perturbazioni non sono previste, quindi per il momento insomma quest'autunno non è particolarmente cattivo. Meno male, se no se ne pentirebbe. Grazie al nostro Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo, ciao Trebi Meteo, e noi ci riaggiorniamo come sempre per le notizie più importanti alle 22.